Allora eccoci, allora due giorni di iniziative al Lucernario occupato a ridosso di una due giorni nazionale, subito dopo la quale ci sarà anche una importata giornata di mobilitazione a Roma il 18 marzo, insomma un calendario che appare piuttosto denso di appuntamenti. Speriamo ovviamente che ci siano anche le forze in grado di supportarli, di sostenerli questi appuntamenti. Intanto appunto c'è a partire da oggi questa iniziativa al Lucernario occupato, che sarà anche momento di confronto e di dibattito su questi temi relativi alla città di Roma, alla situazione di esposizione finanziaria, alle soluzioni che si stanno definendo nell'ambito del governo in rapporto appunto anche alle nuove funzioni degli enti locali sulla via del commissariamento. Noi siamo al telefono con Pietro, ciao. Ciao a tutti. Ciao, allora come si colloca, Pietro, questa iniziativa dentro questo momento così abbastanza particolare e in una settimana che si preannuncia comunque tutta da seguire? Sì, questa iniziativa nasce dal percorso Aprite quella porta, che è un percorso di lista per studenti e precari, che dopo insomma l'esperienza di De Gaglio occupato da aprile scorso sta costruendo le tappe per provare a costruire altri studentati autogestiti qua intorno alla Sapienza. Sono due giorni che abbiamo pensato, che è iniziata questa mattina con i ragazzi che stanno già dipingendo e stanno autocostruendo un'aula studio all'aperto nello spazio antistante il Lucernario, che andrà avanti per tutta la giornata, che in particolare oggi alle 5:30 del pomeriggio ospiterà un incontro a cui abbiamo invitato Paolo Bertini, l'urbanista autore della riedizione di Roma Moderna dell'Einaudi, e Ilenia Fina, una giornalista che ha scritto l'anno scorso per Castelvecchi Chi comanda Roma, e Alberto Violante, ricercatore di sociologia che ha scritto La metropoli spezzata, tra le altre cose. Abbiamo invitato questi ospiti per provare a fare un ragionamento insieme su la situazione di questa città. Il dibattito si chiama Roma Capitola, non a caso, perché la nostra tesi insomma che si stia utilizzando il debito di Roma per imporre delle politiche ultraliberiste che poche hanno a che fare con le esigenze di bilancio, e molto hanno a che fare invece con gli interessi dei soliti nodi che provano a aumentare i loro profitti mettendo le mani su le municipalizzate e su parte del patrimonio pubblico. E lo vogliamo farlo, vogliamo fare questo incontro e questo dibattito invitando anche le realtà sociali che in questa città non da oggi hanno iniziato a opporsi a questo disegno di sviluppo urbano, in particolare i movimenti di lotta per la casa, che insomma da un anno e mezzo sono in mobilitazione costante e che presidiano fisicamente anche alcuni degli immobili che sarebbero una delle strategie per fare cassa che il comune e il governo stanno immaginando. E quindi niente, l'appuntamento per questo è alle 5:30, poi da due giorni continuerà con la proiezione del documentario De Gaglio si applica alle 8:30 di questa sera, e domani invece ci sarà una festa alle 11 di sera con gli Ernestani, insomma un momento più ludico. Bene, allora un ricco programma di iniziative in questi due giorni. Senti, ti volevo chiedere, ma così insomma giusto per continuare a parlarne, l'abbiamo fatto anche prima discutendo della questione dell'acqua, ma in generale appunto di queste misure contenute nel Salva Roma, no? Che insomma sembra che ormai si debba fare i conti con una gestione davvero tutta privata delle risorse e dei servizi, ma soprattutto queste misure sembrano ridefinire la funzione dell'ente locale, perché insomma che soggiogato dai movimenti del capitale finanziario, in balia se vogliamo di queste misure di bilancio che entrano diciamo in maniera ancora più viva, hanno un impatto ancora più forte sulla vita delle persone. Cioè sembra di essere alla vigilia di un cambiamento importante, forse epocale, insomma. Ecco, da questo punto di vista, anche se ancora insomma credo la questione della riappropriazione sia da riarticolare, riattualizzare, insomma comunque costituisce senza dubbio un viatico importante per cercare di opporsi a questa realtà. Sì, io penso che insomma un paio di cose sulla sul Salva Roma e sulla svolta che c'è in corso da questo punto di vista, di una ridefinizione delle funzioni degli enti locali del Comune di Roma in particolare. Poi insomma, accanto alla finanziarizzazione, comunque continuano ad essere costanti una serie di poteri in questa città che sono più arcaici, ma che continuano ad avere le mani parecchio in pasta per quello che riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico. In particolare mi riferisco a Caltagirone e a alcuni palazzi in aria che sicuramente non possiamo definire una novità degli ultimi anni, insomma, loro intrallarci con la politica. Detto ciò, penso che il tema della riappropriazione sia soprattutto quando e come i movimenti di lotta per la casa, le esperienze di riappropriazione diretta degli studenti e dei senza casa riescono anche a essere un terreno di incontro e una base per costruire alleanze. Io penso ad esempio al corteo del 20 gennaio con i lavoratori delle municipalizzate, con chi si mobilita nel mondo della logistica contro una discarica a Malagrotta. Questo pure vuole essere un pochino il tema del dibattito del pomeriggio, cioè come il terreno della riappropriazione possa essere un primo tassello che mettiamo per riuscire a costruire quelle reti di solidarietà e quelle alleanze che ci consentano di contrastare un disegno così violento da parte del capitale su questa città, cioè come a partire dai movimenti di lotta per la casa, ma non solo, come un po' abbiamo fatto appunto il 20 gennaio insieme ai lavoratori dell'ATAC, si riesce a costruire una forza soggettiva che impedisca l'espropriazione completa di questa città. Senti, un'ultima cosa Pietro, ma a livello appunto di movimenti studenteschi e anche degli studenti, perché poi sono tra i soggetti che animano il movimento di occupazione per il diritto all'abitare, ci sarà anche da parte vostra una partecipazione al 18, a questa giornata in Campidoglio in cui appunto saranno ci sarà un consiglio comunale straordinario, sembra aperto per discutere delle questioni contenute nel Salva Roma? Sì, sicuramente sarà tra gli appuntamenti che promuoveremo nei prossimi giorni. Ho capito, va bene, perfetto. Allora noi ricordiamo questi due giorni a Lucernario e soprattutto il dibattito di oggi alle 17:30 tra gli invitati appunto Berdini, Ilenia Sina e Alberto Violante, quindi insomma l'invito è a partecipare numerosi. Grazie mille, a presto. Grazie a voi, ciao ciao.